pensavo che avesse studiato seriamente a casa ieri, però oggi no. Cioè, mi dà questa facilità e uno non lo fa. Zarco, scrivi la potenza per il mio amico Marco. Portami il... Che cazzo ne so io per pensare? Che cazzo ne so io? Adesso una nota. Cosa hai detto? Ma che mi sono rotto i coglioni, ho detto. Basta! Puttana di quella Eva, sempre con me ce l'ha! Da 2 anni che ce l'ha con me! Cosa ti ho ma fatto? Ma porco Dio! Benissimo! Mi chiami da fuori, per favore! Mettiamo solo due, dai! Ma non io tu ha detto che ti mettiamo due! Dai! Chiama un po', chiama la signora per favore! Chiama la signora e l'ho mandata al prete! Non mi interessa mettere due, però! Io l'elettronica fa schifo, non ho detto, ho detto che ti mettevo due! Non serve mai la vita elettronica! Ascoltami, chiudi la porta! Ti ho detto che ti mettevo due! Ma che mi metti tre? Più bello, vero? Io non ti ho detto nessun voto! Tu hai reagito, mi chiami la signora per favore! Ti vado a pensare che il tuo comportamento... Va bene, ha ragione, ho sbagliato io, ma perché lei mi sta salendo nervoso ogni volta? Io cosa ti ho detto? Ogni volta c'è la... Mi dici cosa ti ho detto, per favore, mi rispondi! Mi chiede la potenza elettrica che sa benissimo che io non c'era qua. Come faccio a sapere che tu non ci sei un giorno? Quando l'ho detto io, ma stai scherzando? Io ti ho chiesto una domandina semplice e semplice. Tu non la sai, che vuoi da me? Cioè io che ce l'ho con te perché ti faccio una domanda e ti rispondo in questo modo. Allora, ma spero... Si comporta. Si comporti in questo modo. Il voto lo vediamo dopo, quando lo dirò ti dirò cosa di me. Adesso vai dal presidente con la signora, lo accompagno in presidenza, vediamo se lo sospende subito oppure no, che sta storia deve pure finire. Te ne sono dato un porti di presa, neanche questo posso dire più in questa casa. Ma cosa ci chiede di essere?